Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Maggioritario, proporzionale, sistema misto, a turno unico o a doppio turno, con o senza sbarramento, listini bloccati, preferenze, collegi uninominali. Queste parole un po' tecniche e apparentemente difficili descrivono i vari sistemi elettorali che sono diversi da paese a paese. Proprio in queste settimane il Parlamento è al lavoro per cambiare la vecchia legge che regola il voto e la rappresentanza, il famoso Porcellum firmato Calderoli. Ma perché dedicare una puntata di una rubrica sul bene comune e sulla dottrina sociale della Chiesa per un tema come questo, quando ci sarebbero molti altri argomenti dignitosissimi da affrontare? Spesso si ironizza sulla complicatezza dei meccanismi elettorali. Alcuni commentatori ricordano che gli italiani hanno ben altre priorità, che sono ben diverse dalle leggi elettorali. Eppure, definire il sistema con cui si vota è fondamentale per il bene comune. La legge elettorale, infatti, garantisce e regola il delicato meccanismo della rappresentanza politica in un paese democratico. Una buona legge aiuta la democrazia, una cattiva la ferisce. Ma cosa ci dice la dottrina sociale sulla rappresentanza? Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Nel sistema democratico l'autorità politica è responsabile di fronte al popolo. Gli organismi rappresentativi devono essere sottoposti ad un effettivo controllo da parte del corpo sociale. Questo controllo è possibile innanzitutto tramite libere elezioni che permettono la scelta nonché la sostituzione dei rappresentanti. L'obbligo da parte degli eletti di rendere conto del loro operato, garantito dal rispetto delle scadenze elettorali, è elemento costitutivo della rappresentanza democratica. Abbiamo con noi, gentili ascoltatori, in collegamento telefonico l'onorevole Margherita Mioto del Partito Democratico. Grazie per essere con noi, onorevole. Grazie a lei. Abbiamo letto nel brano del compendio della dottrina sociale della Chiesa come gli organismi rappresentativi devono essere sottoposti al controllo del corpo sociale. Quanto conta la legge elettorale nella reale attuazione di questo controllo del popolo sugli eletti? Purtroppo l'attuale legge elettorale è la negazione del controllo dei cittadini sugli eletti, perché gli eletti non sono eletti direttamente dai cittadini, non si esprimono con una preferenza o con un voto nei collegi, no? Come quelli che abbiamo sperimentato nei 10 anni che abbiamo alle nostre spalle, forse anche di più, 15 anni che abbiamo alle nostre spalle, ma trovano una lista rigida all'interno della quale non possono scegliere il loro parlamentare. Quindi è la negazione del controllo. E da ciò la necessità di cambiarla. Sì, per molti infatti, adesso, in questo momento, quasi per tutti, prima non da tutti, sentivano questa necessità di cambiare il Porcellum. È così necessario per il bene della democrazia cambiarlo? Adesso? Assolutamente, assolutamente sì. Non solo perché alle spalle abbiamo oltre 1 milione di firme su una proposta di modifica del Porcellum, lo ricordiamo, la iniziativa referendaria che poi non è stata ammessa dalla Corte Costituzionale perché era stata formulata in un modo non corretto, però la volontà politica di cambiare il Porcellum l'abbiamo vista espressa da queste centinaia di migliaia di cittadini che hanno firmato quel referendum. Ma devo dire che il Porcellum è fallito sull'unico punto che era stato esibito da chi l'aveva alla fine della precedente legislatura, l'aveva approvato, e cioè la stabilità delle maggioranze. È fallito su quel punto perché è di fronte a tutti noi l'esperienza di questi anni, di questo ultimo anno, nel quale, come sappiamo, è franata la maggioranza uscita con il Porcellum, con la più grande maggioranza della storia. È franata e oggi abbiamo un governo Monti che è sorretto da una, sappiamo tutti, da una maggioranza di emergenza, chiamiamola così, molto ampia, ma che non è quella votata dagli elettori. Ecco, chiaramente adesso tutti vogliono cambiare il Porcellum, però tradire il fare, insomma, c'è di mezzo il mare, c'è tanta fatica nel poterla pensare. Perché c'è, non basta cancellarla, tornare al Mattarellum, perché così tanta fatica in questo cambio? Lei ha detto una cosa giustissima, basterebbe rieditare il Mattarellum, ma nel Parlamento è cambiato il governo, ma non è cambiata la maggioranza. Ma sempre che ha appoggiato il Porcellum, e poiché ha come interesse principale la salvaguardia degli interessi di partito e non gli interessi del paese, diciamo così in maniera, se vuole, un po' rozza e anche un po' rapida, ecco, si fa fatica a produrre questa legge, perché francamente la maggioranza, che è maggioranza al Senato ma lo è un po' meno alla Camera, non si è trovato ancora d'accordo su un testo da valutare e concordare con chi è minoranza, cioè noi. E le leggi elettorali dovrebbero essere approvate con larghe maggioranze, non con maggioranze striminzite. Ho l'impressione che ciò che accadrà nei prossimi giorni al Senato invece tradisca ancora una volta questo principio. È molto grave, purtroppo, ma io spero ancora, insomma, che nelle residue settimane che abbiamo davanti si possa fare, le aggiungo, si deve fare. Ecco, chiaramente alcuni, insomma, è molto difficile trovare anche un equilibrio tra le diverse forze politiche. Ora come ora, il Partito Democratico, cosa andrebbe bene al Partito Democratico? Una legge elettorale che si fondi su due pilastri: consentire all'elettore di scegliere il proprio candidato, ma di scegliere anche la coalizione, di modo che il giorno dello scrutinio, alla sera dello scrutinio, si possa già sapere qual è la coalizione che ha vinto e qual è la composizione del Parlamento. Poi il Presidente della Repubblica incaricherà il Premier, il candidato Premier, per fare il governo. Ma almeno queste due condizioni, scegliere il proprio parlamentare e scegliere la coalizione, dovrebbe essere affidato e restituito agli elettori. Purtroppo la proposta che sta venendo avanti consente di scegliere il candidato, ma non di scegliere la coalizione, e quindi può gettare il paese in una stagione di ingovernabilità che è molto grave soprattutto nell'attuale crisi economica. La ringrazio infinitamente, ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. So che cosa pensi, è chiaro ormai per me, il gusto troppo amaro delle tue lacrime. Parlando di una stella, hai detto non andare via, ma i buchi neri in fondo sono stelle in avaria. E la tua confusione è tutto quel che ho, si nasconde dietro spiegazioni, ma non c'è niente da capire e da nascondere. Tu non riesci a stare seria neanche ora che ti sto per dire ciao. Non riesco a respirare, come mai? E non so che sto cercando, se tu non cerchi come me non posso più aspettare. Attrazione, il dolore che mi dà, e Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con l'onorevole Margherita Mioto del Partito Democratico e stiamo discutendo, stiamo insomma ragionando sulla legge elettorale in queste settimane in fase di definizione in Parlamento. Grazie per essere con noi, onorevole. Grazie, grazie a lei. Uno dei più grossi deficit, possiamo universalmente riconosciuti del Porcellum, erano i famosi listini bloccati. Adesso si vorrebbe tornare alle preferenze in un sistema proporzionale, da quel che si capisce, anche se le proposte cambiano di giorno in giorno. Perché il Partito Democratico si è detto fermamente contrario a questo tipo di preferenze? Ma ecco, devo dire che personalmente non demonizzo le preferenze. Io ho avuto l'esperienza di essere eletta in consiglio regionale con le preferenze e lo ritengo un metodo elettorale molto sano, nel senso che responsabilizza l'eletto e lo rende anche più autorevole, diciamo. Ecco. Quindi non demonizzo le preferenze, e anche nel Partito Democratico ce ne sono molti che la pensano come me, però la scelta che ha fatto il Partito Democratico è quella dei collegi. In verità, parlare delle preferenze in queste ore di scandali che vengono a galla proprio legati alla compravendita delle preferenze può sembrare un po', insomma, un discorso poco popolare e un po' controcorrente. E tuttavia c'è una differenza fondamentale fra i collegi e le preferenze. Qual è questa differenza? Nel collegio il parlamentare ha l'obbligo di avere un rapporto con un territorio, con le istituzioni di quel territorio, risponde cioè a tutti gli elettori, non solo a quelli che lo hanno votato, di un territorio, ed è chiaramente identificato il rapporto. A proposito del controllo che lei prima citava, il controllo è più facile da esercitare quando i cittadini, gli elettori di un territorio sanno qual è il parlamentare che li rappresenta in Parlamento. Con le preferenze invece, che ripeto, un ottimo modo per consentire all'elettore di scegliere il proprio rappresentante, però la singola preferenza di quell'elettore si nasconde, come dire, finisce per sparire all'interno del complesso delle preferenze che quell'eletto ha ricevuto. La responsabilità, cioè, dell'eletto nei confronti degli elettori è meno forte, perché a ciascuno di quegli elettori che l'hanno votato, quell'eletto potrebbe sempre dire, potrebbe sempre rispondere che ci sono molti altri elettori che lo hanno sostenuto, che lui ritiene di dover rappresentare. E invece la funzione che ha un eletto nelle istituzioni è quello di perseguire il bene comune, l'interesse generale. E il metodo delle preferenze potrebbe rischiare, come abbiamo visto in questo periodo, di collegare troppo l'eletto agli interessi economici e sociali non sempre trasparenti e puliti che nella società ci sono e si manifestano democraticamente. Una legge elettorale, come sappiamo, deve garantire sia la governabilità, ma al tempo stesso deve far sì che il Parlamento rappresenti in un'immagine abbastanza fedele le idee e le posizioni dei cittadini. E però questi due principi, quello della governabilità e quello della rappresentanza, a volte non è che vadano molto d'accordo. Qual è il giusto amalgama tra i due? Guardi, ci sono metodi elettorali già sperimentati nel mondo, in altre democrazie avanzate, ma che abbiamo sperimentato anche noi, basterebbe correggere alcuni elementi che qualche debolezza, insomma, che hanno avuto. Qual è l'amalgama, come lei appunto definisce giustamente, fra i due principi? Entrambi vanno salvaguardati. La governabilità. Per garantire la governabilità occorre prima del voto dire con chi si governa, quali sono le coalizioni, e si può stabilire un premio di maggioranza non elevatissimo, ma che consenta di garantire appunto la governabilità. Dirlo prima delle elezioni però con chi si governa. E così, come dire, si stabilisce un patto con gli elettori. Come garantire la rappresentanza? La rappresentanza la si garantisce con il diritto di tribuna anche per le forze politiche che non hanno un elevatissimo consenso. È giusto stabilire un quorum da superare, però il diritto di tribuna per le forze minori, noi avevamo una proposta che assegnava 12 seggi in tutto il Parlamento per le forze che sono al di sotto del quorum previsto. Si può fissare il quorum al 4, al 5% per ottenere la rappresentanza? Ok. Sotto questo 4-5%, guardi che ci sono qualche milione di elettori, 4-5%. Sì. Allora, con il diritto di tribuna, vuol dire 1, 2, 3 parlamentari, si possono garantire queste presenze. Meglio averle in Parlamento che fuori dal Parlamento. Ecco, tra governabilità e rappresentanza, adesso di cosa ha più bisogno il Paese? Di entrambi perché come lei vede la governabilità è assolutamente indispensabile, ma anche la rappresentanza. Per chi è fuori dal Parlamento oggi e c'ha solo le piazze per manifestare il dissenso non va bene. È il Parlamento la sede nella quale tutti devono avere la possibilità di dire la loro e di rappresentare le tensioni sociali che sono così forti fuori dal Paese. Quando stanno fuori dal Parlamento non si sa mai che fine possono fare, soprattutto da chi possono essere strumentalizzate. In breve, proprio un flash, dalla legge elettorale che uscirà dipenderà anche in qualche modo la qualità della classe politica? Senz'altro, non ho dubbi alcuno, è proprio così. Cambiare la legge elettorale aiuta la democrazia in questo Paese. La ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha concesso. Nei prossimi giorni vedremo cosa il Parlamento riuscirà a produrre in attesa delle elezioni politiche previste attualmente per il marzo del 2013. Grazie onorevole e buon lavoro. Grazie tantissimo. Arrivederci. Ricordiamo l'appuntamento di sabato 3 novembre nell'Aula Magna della Facoltà Teologica del Triveneto a Padova, dalle 9.30 alle 16. L'Azione Cattolica, ACLI, AGESCI, CSI, noi, l'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro e la Fondazione Lanza terranno la giornata Cittadini di questo mondo, Open Field 2012. Interverranno nella mattinata Monsignor Roberto Tommasi, il preside della Facoltà Teologica, il Vescovo di Padova Monsignor Antonio Mattiazzo, ci sarà la prolusione della teologa Serena Noceti e in dialogo con il filosofo Luigi Alici.